Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Figura da pirla della settimana, chi è stavolta? Figura da pirla della settimana alla Repubblica Popolare Cinese. Ma sempre lei? Cosa ci vuoi fare? La Cina è grande, popolosa, e quindi è più facile che una pirlata la faccia un cinese piuttosto che la faccia un altro. È la legge dei grandi numeri. Certo. Stavolta mi riferisco al premio Confucio. Il premio Confucio, anzi aspetta. Il premio Confucio. E cos'è? Appunto, non lo sa nessuno, lo sanno solo i cinesi. L'hanno inventato in fretta e furia nei giorni in cui si parlava dappertutto di Luxiaobo. È roba cinese, dai allora. Luxiaobo, insomma. Allora, questo premio Confucio in pratica è il tarocco cinese del premio Nobel per la pace. Beh, che novità, taroccano tutti i cinesi, giustamente hanno taroccato anche il premio. E secondo te chi l'ha vinto? Luxiaobo. No, l'hanno fatto apposta per non parlare di Luxiaobo, dai. Allora non lo so, chi l'ha vinto? Il presidente, Wen Jiabao, no. Hu Jintao, dai, capo, quasi. Cioè, non l'ha vinto lui, però l'ha vinto l'ex presidente di Taiwan, Lian Chen. Vabbè, Taiwan, tutto a caso. Sì, infatti, è commovente però vedere come la Cina, grande e grossa com'è, si comporti esattamente come un bambino geloso del giocattolo del suo amichetto, no? Voi avete premio Nobel e noi avete premio Confucio. Anche la scelta del nome non è un po' bambinesca? Cioè, loro sono lì che dicono... Volete mettere inventore di quarta categoria con grande Confucio? Cioè, voglio dire, Confucio, cioè, hanno giocato pesante, no? Beh, però cinesi famosi nel mondo, da intestargli un premio non è che ce ne siano tantissimi. Potevano tirare su, non so, il premio Mao Zedong per la pace, sarebbe stato un po' un controsenso. Giusto, gli rimaneva giusto Confucio. C'era Yao Ming. Wu Ming. No, Yao Ming. Yao Ming. Il giocatore di basket degli Houston Rockets, quello gigantesco. Sì, però lui è ancora vivo. Vabbè, certo. Per essere un premio bisogna essere morti. È morto. Comunque, in pole position per il premio Confucio 2011, quello dell'anno prossimo, pare che ci sia un bambino del nostro asilo. Ma no! Sì, è il bambino Fede. Pare che sia piaciuto molto ai cinesi quando incitava i poliziotti a menare gli studenti. Studenti, chi lo sa? Questa è gentaglia. È gentaglia che si dovrebbe intervenire e menarli, perché questi capiscono solo di essere menati. Aia! Ma vaffanculo! Giusto per far capire a tutti che a Natale siamo tutti buoni. Vabbè, no? Per forza, lo sanno tutti che non bisogna mai mettere il bambino Bocchino nella stessa stanza con un altro bambino, qualunque. Però stavolta l'hanno messo col bambino Bondi, che di solito è tranquillo, pacioso, eppure niente. Dai, è scoppiato lo stesso il casino. Si vede che a Natale si diventa tutti più cattivi, altro che perfino il bambino Bondi. Lei stasera dovrebbe andare a nascondersi. Dopo quello che è accaduto oggi, dovrebbe andare a nascondersi. E le dico di più. Le do due consigli. Ci sono le vacanze, purtroppo. Lei può andare a nascondersi. Forse può andare a nascondersi a Monte Carlo. Questo è molto divertente. E ora, bambini, ricreazione. Oh, che bello, anche oggi ricreazione lunga, lunghissima. No, non lo so, non c'era scritto oggi, mancava, non so perché. Però vabbè. C'è sempre il bambino Alberto lì che non fa mai niente. La ricreazione è sempre così. Bambino Alberobello. C'è il bambino Alberobello. Non mi chiamo Alberobello. Oh, ma l'ha già subito così. Ma dovete smettere di fare queste ironie sui nomi. Allora. Albanberg. Albanberg. Albinoni. Basta. Albertosi. Io mi chiamo Alberto. Alberto. A. L. B. E R T O. A come autistico, L di lunatico, B di bambino come me, E come esagerato, R come rimbambito, T come te, e poi O come ho 30, A di ansiolitico, L di lisergico, B come bunga bunga, bingo bongo bamba, E come elementare, zucchero, grassi vegetali non idrogenati, latte intero al 10%, vabbè, ma farina di frumento. Cosa qui, faccio? Cosa sono gli ingredienti della merendina? Una lista, no? Adesso vanno di moda gli elenchi, le liste, vabbè, anche questa è una lista. Tra l'altro questa lista almeno ha un ordine, perché comincia con gli ingredienti maggiormente presenti nell'alimento, quindi in questo caso zucchero, comincia con zucchero. Quindi la merendina è composta principalmente di zucchero. E l'ultimo? L'ultima cosa è il sale, c'è pochissimo sale. Insomma, è una merendina dolce per forza. Comunque gli elenchi, Drago, gli elenchi sono la cosa più facile da fare. Sì. Non bisogna saper scrivere. Tu fai un elenco, metti solo un elenco di nomi, no? Non devi mica saper coniugare i verbi, concordare i participi. Tu leggi una lista, scrivi e poi leggi una lista di parole. Vabbè, però anche noi a Chiedo Asilo vogliamo fare il nostro elenco. L'abbiamo già fatto con i consigli alle giovani generazioni, letto niente meno che da William Burroughs, però adesso vogliamo fare un elenco invece al passo coi tempi, e cioè l'elenco dei regali ideali per i bambini a seconda dell'età. Da 1 a 3 anni, nessun regalo. A questi bambini basta vedere che le cose intorno a loro si muovono e già si divertono. Il miglior regalo che potete fare a un bambino così piccolo è quello di non rimanere fermi impalati di fronte a lui. Papà, papà, perché sei lì fermo impalato? Ho l'ictus. Papà? L'ictus? Che cos'è? Da 3 a 6 anni. Le costruzioni. A quest'età i piccoli vorrebbero tutti essere a capo di un'impresa edile. Appalti, subappalti e capitolati sono le parole d'ordine seguite da cemento impoverito, rotonde alla francese e edilizia popolare. Facciamo che io ero anemone e ti ristrutturavo la villa, però tu non lo sapevi? Da 6 a 9 anni. Un gatto. Un cane. Un animale deve essere curato e seguito, ma in cambio restituisce una grande quantità d'affetto assolutamente gratuito. Regalando un animale al vostro bambino, potete cominciare a disinteressarvi gradualmente di lui. Tito, ancora sul tappeto? Ma ti ho portato fuori 2 settimane fa! Da 9 a 14 anni, il videogioco. A quest'età il gioco si confonde con la sperimentazione scientifica e i videogiochi rappresentano l'esemplificazione di quello che serve al vostro bambino. Sappiate che da questo momento vostro figlio non sarà più lo stesso e che la crisi non si ricomporrà mai più. A tavola! Ma no, non mangio! Devo battere il record! Da 14 a 18 anni la carta di credito. Ormai avete un alieno in casa e capite presto che tutto quello a cui aspira è spendere i vostri soldi. A questo punto siete a un bivio. Gli regalate una carta di credito o una lettera di diffida? Mamma, ho detto che mi servono altri soldi. Se non ce li hai, ti vendi la pelliccia. E ora, bambini, e tutti a casa. Cosa ti porta a Babbo Natale quest'anno? Non lo so, Tito sta bravo, non anche lo so, qui, non lo so, è una sorpresa poi. Scusa. Ma non l'hai scritta la mail in Finlandia? Ma no. Potevi mandare una mail certificata, così eri a posto, no? Perché tu hai mandato la mail certificata. No, beh, io ho fatto un'altra cosa, cioè, ho scritto su Facebook. A Babbo Natale? Sì, solo che adesso non so se sia il vero Babbo Natale o un millantatore. Ma infatti bisogna continuare con i vecchi metodi tradizionali, scrivi una bella letterina, la spedisci per posta ordinaria a Rovaniemi in Finlandia, così almeno sei sicuro che arriva proprio a Babbo Natale, ci metti SPM sopra. Vabbè, sei a posto, però, ma vacci tu alla posta adesso in questi tempi di Natale. Perché? Internet è più facile, dai. Vabbè, ho capito, ma l'hai detto tu, no? Adesso hai paura di aver mandato la letterina a un Babbo Natale fittizio, un millantatore. Sì. Magari è un'azienda specializzata in truffe farmaceutiche, per esempio. Truffe farmaceutiche? Guarda che il 99% della spam e del commercio via internet riguarda proprio finte pillole tipo Viagra, Cialis, Cialis. In effetti io a Babbo Natale avevo chiesto proprio uno stock di quelle pillole lì. E quindi è una truffa? Sono finti i farmaci. No. Ma sì, a volte fanno anche male. Cazzo. Ma hai pagato? Certo. Ma come? Ma per scrivere a Babbo Natale hai pagato? Mi hanno chiesto il numero della carta di credito, il codice di sicurezza. Bravo. E tu li hai scritti? È uscita fuori la videata così, pensavo che fosse... Ma cosa? Cioè, non ci ho proprio pensato. Vabbè, dai, coraggio. Babbo Natale non esiste. Speriamo. Tanti soldi però me li ha presi. Tutti più buoni, tutti più carini, oh. domani. E mandate le vostre pilloline blu a chiedoasilo@radio24.it. Anche quelle beige van bene. Chiedo asilo.